Quasi in orario. Comunque Race, maestro Jedi. avresti dovuto indossare gli accessori, Katta. Fa Eccolo. caldo. Masterissimo, crudelissimus. Ma è vero, Atanasio, che bellissimo. Ci sono un mix di Rame e Garrosh. c'è un buco perché passa da 11 settimane fa, la maledizione di Katta, episodio Sì, abbiamo 69. perso purtroppo dei video. Vabbè, non Ah, crogioliamoci la però. Perché maledizione di Katta. Quello prima della maledizione di Katta 53-49 settimane fa. se è vero che i video forse non li potete più vedere, però potrete sempre ascoltarci sul podcast. E oggi è uscito il 27esimo Liber di Ombra Imperi. Oggi però non giochiamo a Ombra Imperi, attenzione, perché giochiamo di nuovo, ciao Miki, alla maledizione di Katta. Questo è l'episodio 75 della maledizione di Katta. Non ci siamo ancora stancati, anzi, abbiamo rilanciato. Katta, mostraci che cosa la nostra Addirittura, malattia, la nostra beh, di se ogni parli di giorno. malattia, No, a parte quello che vabbè, ma sei riuscito ad ascoltarla in qualche questa modo? No. sì, beh, c'è su Spotify, su E quindi la YouTube sigla di Music. oggi sarà. Esatto, Ah la sì? sigla di oggi sarà: si intitolerà It's Just the End of the World dall'album Poison Summer dei Trotsky Sei un Icepick, grande, Katta, sei un grande. che adesso partirà, se ho Facciamo scritto i nostri bene. auguri al nostro maestro Katabriga, al nostro master Katabriga. Con noi oggi, Grazie. Sound On, ci sarà, oltre a lui, Giulio Abbassatelo un po' Bossi. perché mi sa che l'altra volta copriva tutte le nostre voci. Minchia, Ma come dici? stavolta? Madonna. Deve abbassare Vez perché l'audio lo prende da Vez. Sì, Sì, no, esatto. no, ma era 70, io vi sento, quindi secondo me se io È sento voi. che bisogna sentire come si sente in Vabbè, diretta. ascoltate, e di solito nel podcast non si sente quasi mai, per la Voi che verità. state seguendo la diretta, commentate se dobbiamo abbassare il volume o se Comunque, volete che lo alziamo per non sentire Vez. se non l'avete sentito, però non possono dire nulla, giusto? Ottimo servizio. Oh, arguto. Maledizione In diretta si Katta, sente episodio fortissimo. 75, Stefano Gamberoni con noi, Edoardo Salvini pure, Marco Bosi in una location diversa perché è tornato in Italia? Ma siete però in posti diversi. Fantastico. Giulio Bosi da un'altra Abbastanza ridere. parte. Beh, congratulazioni per il vostro benessere, potete permettervi 26 abitazioni. Vabbè, io sono qui nell'appartamento a Bologna e Marco è da nonna. Enrico Cattabriga, il nostro master, con noi, ha compiuto gli anni settimana scorsa. Gli facciamo di nuovo gli auguri, ma adesso è il momento di un Grazie. bel riassunto, e quel riassunto non può che farlo. Non può che farlo. Allora. Sala c'era? No, tra l'altro. Non Ah credo. no, è vero. Va bene, dai, No, in realtà mi lo sa provo a fare che io, però aiutatemi. io Allora. in realtà c'ero, raga. C'eri? Come c'è? No, si era Eh sì nascosto che dietro c'è. l'angolo, Aspetta, non che l'abbiamo carini visto. comunque i Trotsky Icepick. Ah sì, sono simil Joy Division, quella New Wave di quegli anni, ci sta. Io, raga, mi sa che c'ero. Siamo stati 2 ore a pensare a come fare, cosa fare, Sì, cosa esatto. fare. Poi abbiamo semplicemente eliminato tutti. Allora, noi Sì, abbiamo Sala c'era, Sala combattuto c'era. nei sotterranei del Lo scontro Ravenloft. che avevamo rimandato per poterlo fare con Arce. Oddio, Ravenloft si chiama. Sì. Ok, il castello di Strahd. E tra l'altro, no, quello che volevo che tu facessi mostrarsi, Katta, era un'altra cosa che la nostra follia ti aveva regalato. Eccolo La vostra qua, il follia. manuale, un po' di branding. Purtroppo abbiamo avuto questa cattiva pensata. Ma non pensiate che la maledizione di Se Katta la sarà Wizard of molto the di più. Coast vuole sponsorizzarci. Quindi Faremo 140 solo 100 episodi episodi. abbiamo. 100 episodi, come Ratman, che poi sono Io diventati vorrei che 150. ogni sessione ci leggesse un brano, una parte, un paragrafo. Di che cosa? Del manuale Ah, che. beh, ce ne sono di. Appunto. Va Vuol bene. dire. C'è un sacco di lore, un sacco di La canzone è finita, ambientazione. il riassunto è appena iniziato però, ma lo completiamo con velocità. Abbiamo combattuto contro degli zombie Zombie. acquatici. Abbiamo vinto. E poi ci siamo nascosti sott'acqua dall'arrivo degli altri zombie del Wright, okay. Del Wright, che in qualche modo, nonostante io tipo abbia fatto tipo scorreggiato in acqua o cose del genere, non ci ha scoperto molto bene. Grazie al vostro amico. Esatto, no. Grazie al lupo mannaro che ha fatto finta di essere uno zombie. Ok. Dopodiché, ma è ancora con noi lui, no? Adesso se n'è andato. No, è ancora con noi. Potrebbe... Lo deciderò più tardi. Potrebbe aver preso un'altra palletta del teletrasporto. Comunque, abbiamo ritrovato le nostre armature, le nostre armi, le 26.000 armi di Race. Dopodiché stavamo per tornarcene indietro. Abbiamo indossato le armature, i vestiti, eccetera, eccetera. Salvo che Sfortuna, insieme a Garrosh, si sono messi a esplorare. Dai, diamo il merito a Garrosh che ha fatto l'unica cosa utile dei suoi ultimi 13 anni di giocare di ruolo. Sono andati in su questo soppalco. In realtà non sono... Aspetta. Posso spiegare? Non sono 13 anni, sono tipo 16. 17 anni e questa è l'unica giocata utile che ha fatto. In realtà non volevo che fosse utile, il mio intento era esplorare più stanze possibili in modo da avere più descrizioni possibili, quindi ho detto qui c'è una porta, ma apriamola, perché? In realtà ho accorciato il tutto perché era divertente e invece purtroppo ci ho trovato avanti. La scorciatoia, ovvero purtroppo. Sono andati sul soppalco sopra questa camera dove in realtà poi sono state nascoste le armi eccetera sott'acqua. Sopra questo soppalco c'era una porticina che portava in questa stanza dove c'era una sorta di braciere o qualcosa del genere. Sì, c'è il braciere che Strad usa per trasportarsi in giro, okay. Per il mondo. Palesemente magico, ci hanno richiamato all'ordine, quindi noi abbiamo seguito e abbiamo utilizzato il braciere per teletrasportarci sulla cima della torre dove dobbiamo cercare di distruggere quello che diciamo incatena l'angelo a Strad, se ho capito bene. Esatto. Sì, un qualcosa che dà Strad controllo. Quando siamo arrivati su, abbiamo trovato una sfera luminosa, ricordo male? Era un globo. Siamo stati teletrasportati in questa stanza vuota, siamo scesi e per nelle scale c'era questa sorta di roccia luminosa. Roccia barra cuore barra rubino della torre. Al nostro arrivo però la torre ha cominciato a tremare. Quindi era un gran casino rimanerci. Ah, è vero? Rimanere in piedi. Infatti, alcuni di noi, tra cui io, abbiamo optato per la soluzione carponi. E poi delle alabarde ci hanno attaccato. Poi delle alabarde ci hanno attaccate. Ma siamo rimasti lì che dovevamo combattere? No. La scena finale è Giulio che prende la risposta. È vero. Abbiamo scoperto prova al falso della fede. Abbiamo distrutto la barda. È vero che c'è il cliffhanger potentissimo. Salto della fede, chi è che l'ha detto? È vero, c'era un cliffhanger potentissimo. Bene, ripartiamo da lì. In teoria, la sessione inizia con Katta che dice se ce la fa con questo salto o se va oltre perché è troppo forte. Arci, ovviamente, oggi non c'è, lo salutiamo, però. Non c'è una veloce menzione. È il momento dadi di Giulio. Il mio Detect Magic è stato utilissimo. Salla non la poteva sopportare, si è... No, arrivo subito, rega, chiudo tutto. Troppa tensione. Tensione, signori. Ricordatevi che noi siamo Tycoons & Dragons, RGDR, ci potete seguire sui nostri canali social, Tycoons & Dragons e RGDR, compreso il podcast. E questo potrebbe essere l'ultima azione di Giulio come personaggio di questa campagna. Lo figlio adesso, non è così? O forse sì, forse sì, forse no. Io faccio un atletico. Se volete che sia la sua ultima azione, scrivetelo nei commenti. E non tirerà più dadi, patatine. Grazie. Ho fatto 9 più 11, 20. Ma non è il sacchetto di stoffa, l'hai detto l'altra volta. Sì, ce ne ho 7 di sacchetti di stoffa. Sono lì nella busta di plastica. Riesci a colmare la distanza tranquillamente che ti separa dalla scala a questo specie di involucro di cristallo all'interno del quale scorgi una figura rannicchiata di dimensioni non troppo ragguardevoli. È una figura di taglia media, tipo umana, cioè, per quanto vagamente io non si possa umana scorgere. Esatto, sì. Ha due braccia, due gambe e una testa. Ma è una tipo testa. Ferma. Sì, è tipo rannicchiata in posizione fetale, fai conto. Cioè, lui è dentro ora? Lui è sulla cima. Sopra. Okay. E quando si è atterrato ha sentito fare un pochino, come dire, ondeggiare, ma questo corpo cristalloso è rimasto a galleggiare nell'aria. Ma ci ricorda Ilia o no? Cosa hai detto? Ci ricorda Ilia o no questo corpo? No. Per niente, è piuttosto minuto. È l'unico che vede il corpo? Lui lo scorge in maniera più nitida. Si intravede anche da dove siete voi questa figura, ma con la luce che emana questo corpo cristalloso non si distinguono i dettagli e i lineamenti. Sì, ma ricordo bene che sarebbe stato da parlare, da dire: ah, ma cos'è questa cosa? Però io sono lì sopra e adesso devo distruggerlo. No, ma io ricordo bene che noi sappiamo che in teoria è da distruggere, o è una cosa che abbiamo supposto da giocatori e non da personaggi? Ve l'ha detto Ilia di distruggerlo. Quindi noi sappiamo distruggere questa cosa. Okay. Mentre lui ricordo che ha parlato del cuore. Ecco perché l'avevo preso. Quindi mentre Giulio cerca di distruggerlo, posso provare un messaggio per contattare questa figura e dire che sta all'interno? Dire: spostati dalla traiettoria della alabarda. No, chi sei? E mentre finisco, spam l'attacco di Giulio. Catta, quanto spazio c'è fra la fine della scala e l'inizio della sfera? Cioè, la portata per toccarla sarebbe? Sarebbe 10 piedi, ok, 3 metri. Mm-hmm. Quindi se raccolgo una alabarda ci arrivo a colpire. Se la alabarda portata di 3 metri, sì, ci arrivi. Mi sa che ha 5 piedi. Portata. Vabbè, ma ci vado sopra e basta. E questa roccia è mezz'aria, giusto? Esatto. Purtroppo, appunto, la mappa qua è vista dall'alto, quindi. E volevo darvi un'idea delle altezze che chiaramente in questo modo si perdono, perché praticamente una cosa che tu dici, distruggere la pietra non potrebbe essere troppo furbo. No Giulio, tu attacca pure. ormai sono lì, quindi. Perché se sappiamo che dobbiamo distruggerla, sì, sotto di voi c'è un salto di 190 piedi troverò qualcosa a cui aggrapparmi nel caso. Arriva fino al livello del piano terra, del piano principale dove siete entrati e dove siete stati accolti. Okay. E sopra di voi il piano superiore è a 50 piedi. Sopra, se siete al livello del cuore praticamente, e poco sotto di voi, ad una ventina di piedi, c'è un collegamento, questo piccolo pianerottolo con un ingresso che dà su un camminamento verso l'esterno. No, stavo muovendo Vardistran come al solito. Noi comunque non stai condividendo. Cioè, non bravi, condividendo. Me l'ero scordato. E comunque io su questa mappetta vedo un lupettino in un angolino, quindi E perché dovevo decidere che fine aveva fatto, non ero sicuro. Io lo vedo. Vabbè, l'altra volta stavo accennando che anch'io saltavo sopra, però intanto, non so, se vuoi... Vediamo cosa fa lui, se la prima. Ok. Allora, qui vediamo un po'. Convenientemente eri anche il primo del turno precedente, dell'iniziativa. Ah, è vero, c'era... Atanas era il primo. Io farò l'unica cosa intelligente che eri l'ultimo Garrosh. Era effettivamente il primo era Reis, però forse ha bisogno di qualche informazione in più per... Ma io sono lì, no? Sì, sei qua. Boh, ritardo l'azione. Okay. Mi nascondo. Ma noi sappiamo cosa succede una volta distrutto questo? No. No, e lui ci ha detto di distruggerlo perché indebolirebbe Strad, cioè. Perché è quello che gli permette di venire soggiogato dal suo Ah no, potere. però sappiamo che dobbiamo distruggerlo. A quanto Però, pare. se volete liberare il vostro amico, altrimenti. No, no, no, beh, non avevo Quanto capito riesco a starci sopra, non lo che sapevo. avessimo la chiara. Ok. Adesso che lo so. Posso fare un religion Ventilatore. per Sì. capire se ha qualche valenza, siccome è un angelo o no, se c'è qualche collegamento. Sì, puoi farlo. Ah, posso anche fare 2 più 4, 6. Allora, non ne sai abbastanza effettivamente da capire che cosa sta succedendo. Ma diciamo proprio la base, il livello 101 di religioni ti suggerirebbe che è molto strano che un'entità malvagia come... Sì, grazie, molto gentile. E Come è la molto Mickey. strano che un'entità malvagia, esatto, come la Mickey, riesca a controllare un'entità di per sé assolutamente buona. Come un angelo, come un Deva per la precisione. Grazie. E quindi ci deve essere sotto qualcosa. Ma che cosa? Adesso lo scopriremo. Allora, il Forse ne cosa? sta, diciamo, tiene qui prigioniero questo suo, magari un patrono o qualcosa. Esatto, sicuramente Gattacicova. Quindi, che cazzo di stanza è questa? No, queste sono le catacombe, qua, il picco della torre. Io grido ad Ma Atanas, di che 59. cosa è fatta questo cristallo? Cristallo. Cristallo. La risposta esatta è quantomeno accurata. Beh, cristallo dovrebbe essere facile da rompere, però. E non so, comunque io in realtà sono saltato gridando Kawabonga, appena atterro do una due alabardate alla pietra. Era per colpire. Che merda. 14. Credo. Pazzo di classe armatura avrà. Vabbè, Sì, ma se è 14. resistente. 14 e 8. 14 e 8, toccia. Ha tirato 1 e 7. Che Wish. sfiga. Giulio cade giù. Esatto. Ah, se c'era un fumble qui cadeva. Al massimo perdo l'alabarda. Swish. Non La trovo giochiamo in più. ordine di... Era il primo iniziativa. Bello però, c'era Benike, Dico, Erlich. è il secondo però sì. Secondo, sì. Il primo che ha Il fatto qualcosa. secondo però sì. Esatto. Dove cazzo è finito sto bagaglio, porca puttana. Diciamo il primo con un po' di Un'idea. spirito di... Esatto. Di coraggio. È il vero primo in iniziativa, ecco, letteralmente. Oh, ma basta insultare. No, no, il pazzo vorrei vedere voi. Una roccia sospesa per distruggerla. Tu stai pensando all'approccio carismatico, quindi ci sta. Che fai un attimo. Non è vero, io sto cercando un monitor da comprare. Comunque Xiaomi, una smart TV Xiaomi ce l'ha Ambre, buona almeno. Sì, però nessun altro personaggio avrebbe mai fatto una cosa simile. Per noi è buonissimo. Poi... sì, grazie, ma mi sa che comprerò un monitor. Vabbè, dipende cosa ci devi fare tu. La Cina è glam. Comprerò un monitor e ci appiccicherò un... quanto grande è Cina? Madonna, lo trovo più. Tu improvvisamente sei d'accordo con me? Cosa? La Cina è grande, grande. Comunque Vez era da, da... Hai detto glande? La Cina ma è glande. La glande Cina. La Cina è un glande, hai la detto? La Cina è un glande glande. Comunque sabato è il top per giocare il pomeriggio. No, raga, non sai così, oggettivamente... Anche di sera. A esistere. Sì. Giocate con 35 gradi. Cioè. No. Mera, raga, io... Sì, ma te, no, immagino seriamente, cioè 3 anni che stavi là, minchia, è una botta. Cioè, potevi io tipo... sto morendo. Dove lavori potevi dire, rega, arrivo a settembre, ce la faccio l'estate, lasciami là. No, ma lavoro all'aria condizionata, quindi in teoria sono stronzio. Allora fai un sacco di questi di straordinari. No, noi oggi... E a caso, no, fatto. Lavoro ancora un po'. Ieri ho camminato fino a Murri e sono tornato indietro e ero tipo una pozza di sudore, ho cambiato 3 maglie. Noi abbiamo l'aria condizionata rotta al bar, non vi dico com'è. Sì, ma io sono andato a fare il vaccino, avevo la maglia di riserva, l'ho messa, poi sono tornato, l'ho ricambiata. Ci credo, sì. Oh, porca troia, l'ho trovato. Ovviamente era da tutta l'altra parte. Madonna. Metti comunque Vez, quando metti le cose sotto didascalia, diciamo, della puntata, metti anche il linguaggio volgare, perché ciao, è arrivato. Comunque, scusa, l'uno è mancato comunque, ma è un 18, non è un 14. Oh, lui è un 18, allora colpisce. Ok, perché il più 7 è solo il bonus di forza. Ah, è vero che sei Hulk. Quindi faccio 6 danni di alabarda più la forza, che quindi è 7, 13 danni. Ok. Colpisci il cuore di cristallo. Il tuo colpo provoca qualche piccola crepa, ma sembra ancora saldo e integro. Ok, il prossimo turno attacco con la spada magica. Ok, la torre continua a agitarsi, gli occupanti fanno un'altra prova di un altro tiro salvezza sulla destrezza. Ma anche il cristallo, a meno che... si agita? No, il cristallo no, chi sta sulle scale della torre, a meno che carponi. Non siano carponi, carponi. O... lo facevo anch'io, mi ricordo. Qualcuno, no, mi ha imitato. No. Qualcuno mi ha imitato. No, io no. Qualcuno mi ha offeso, ma poi mi ha imitato. Non era l'unico Carponi. Ma forse era Giulio che poi è saltato di là. No, no, io non sono mai andato a Carponi. Dopo averlo preso per il culo. Gli altri, a parte Vardistran, mi facciano un tiro salvezza sulla destrezza. Volevi dire Atanas, vero? Madonna. No, volevo dire Vardistran. Perché Katta, io devo tirare. Tu puoi anche non tirare. Devo proprio tirare, Katta. No, in realtà ho fatto 4, quindi forse... Vabbè, però sommi più 3 di Vardistran. Sì, è vero. Più uno della luce? No, più uno della luce. No, 7. Quello no. Allora, stiamo ammazzando il cuore di Strad, praticamente. Ho fatto 16, Scattaz. Hai passato. Vabbè, allora sì, in effetti c'è, la luce comunque... è stata molto, molto rapida ad andarsene appena non abbiamo combattuto Strahd per salvarci la vita. Una un, anzi una foresta ci mette molto a ricrescere e ci mette un attimo ad essere tagliata. Anche le mani, direi. Anche, no, in realtà quando avete dimostrato che le mani dissento di questa cosa. Ma la luce c'è ancora, no? C'è, è solo 10 no. Ore. Ah, esatto. Allora, sì. All'orizzonte si vede ancora il bagliore. Quattro pinne all'orizzonte. Gli Ok. Dopo che la torre si è lamentata, tocca sfortuna. Provo messaggio. Ok, che cosa dici? Chi sei? Chi sei tu? Dentro quel cristallo. Allora. Di questo spesso so gli stessi video di second noise beyond the barrier. One inch coin. Ok. Sai che trova around corners. No world. Ok. Well, wow, congratulations. Il destinatario ti risponde. E questo non è scontato perché l'incantesimo messaggio va lanciato con qualcuno che conosci. Con cui tu hai familiarità. E la risposta è: fuggite, sciocchi, ci condannerete tutti. Ed è una voce che mi è familiare. È quella di Gandalf. Esatto. E, chissà se il messaggio si sente con la voce di chi lo manda. E soprattutto chissà se tu hai mai sentito la sua voce. Comunque è una voce molto bassa e gutturale, quello di un uomo molto vecchio, molto greve, e dai modi, come dire, ragazzi. Satana, scolpisci più forte la prossima volta. Esatto. Bardistran. Beh, non immagino sei che Marco non condivida le sue informazioni. Come sempre fa. Non lo so. Beh, sfortuna. Non è che mi ha dato nessuna informazione, mi ha detto non colpite. Vabbè, è comunque più ci di quello che sappiamo noi, cioè tipo... Vabbè. È l'esatto opposto di quello che stiamo per fare, più che altro. Io in realtà non so bene. potrei provare un Dispel Magic, ma vorrei capire se c'è una magia in essere. Beh, un gigantesco cuore di cristallo fluttuante, probabilmente. Direi che non sta su da solo. Sì, ma è anche un spell magic che probabilmente io non posso sostenere. E poi se ci riesci, il risultato è che Giulio cade a picco col cristallo, quindi ci sta. Sì, la magia in realtà è, è la fluttuazione, non la prigionia, o sì, o entrambe. La fluttuazione. Ma è tutte e due. Il fluttuamento. Di solito i cristalli giganti non fluttuano con della gente imprigionata all'interno, emanando un bagliore rosso. No. Vabbè, però la sua domanda è qual è la magia? Io non so dove vivi tu, ma io ne vedo, cioè... Una cosa che si vede. In realtà il bagliore potrebbero anche emetterlo se avessero, se fossero tipo radioattivi, avessero qualche chilo di uranio, ma forse basta qualche grammo, vero? Cioè, il problema per me di Dispel Magic è che devo di colpirlo nel caso è ancora meglio. Vediamo su Dispel Magic. Cari, ci sono le anime della gente morta che aspetta di rinascere dentro. Dice anche mi rompo un po' perché era un incantesimo di terza, però... E non lo usare? No, vabbè, cioè, non ho che abbia tutte queste gran robe da fare. Come no? Senti gli smite per quando incontreremo Strahd. Sì, ma li incontreremo fa 30 sessioni, non hai capito? Sì, ma non voglio che riposiamo. Sì, esatto. Al massimo qualche post breve. Cioè. Senti, dai, lo provo. Allora, any spell di te... Allora, tutti gli incantesimi di terzo livello più basso finiscono. Ogni incantesimo di quarto più alto, il target, l'obiettivo, deve fare un check. Anche il mio, ok. Il target o tu lo devi fare? È il target in realtà. No, aspetta. Bridge spell. Ah, no, make an ability check. Esatto. La difficoltà è DC più 10. 10 più il livello dell'incantesimo. E io devo fare un... abilità su che cosa? Sul carisma? Quella che usi per lanciare gli incantesimi, sì, il carisma. Carisma. Quindi io ho in teoria un più 7. Vai, tiro. No, no, tiro salvezza più 7. Cioè, cioè carisma più 3 basta? No, come funziona? Devi fare... Ho il mio proficiency. Esatto, la proficiency è il modificatore di caratteristica. Allora... prepariamoci che provo a utilizzare la mia inspiration se fallisco, un po' è probabile. Ok, userò la mia inspiration. Basta farmi fare uno, maledetti dadi! No, va a cagare, 14. Ho perso anche l'inspiration, un disastro. Noti che la fluttuazione del cristallo non viene influenzata. E ne deduci che non è provocato da un effetto, come dire, di magia canonico, è qualcosa di diverso. Noti però che per qualche secondo la luce che emana si affievolisce fino a quasi a spegnersi e poi piano piano ricomincia a brillare. Vabbè, come brillava prima. Super inutile, sostanzialmente. Più o meno. Però, insomma, hai scoperto che c'è della magia. Vabbè, capisci che, grazie. Capisci che tu sei quasi... che sembri in grado di contrastarlo quello che c'è all'interno. Sì, se non tirassi di merda sempre. Capisci che è ancora una volta un dito nel culo. È importante sapere che l'acqua calda è calda. Esatto. Che cazzo. Ho abbruzzato via un inspiration e un... Sai che il suo interno ha... c'è una magia molto potente, una fonte di magia molto potente che nonostante uno possa provare a contrarla momentaneamente, questa fonte di energia... Ma secondo me se sparava un bel ventello, secondo me non c'era questo problema. Secondo me invece non sarebbe cambiato niente. Allora è stato proprio inutile. Sono i classici tiri che ti fa fare, vai. Vabbè, allora dai, forse è quasi meglio. Beh, quello diceva l'incantesimo che lo doveva fare. Ecco, Vezza, quella frustrazione, no? Presente. Va bene. Adesso fare strada che ti chiederà la allora, mano. Allora dico, possiamo solo provare con la bruta violenza, come sempre. Garrosh, tocca a te. Bravo, tocca a me. Quindi, e niente, lo carico, cioè posso poi considerarlo un caricarlo, sì. Corro, salto, lo colpisco. Fammi una prova di atletica. Posso dargli uno svantaggio perché lo spingo giù? Certo, vuoi. Ok, mi dai? Perché ti sorprendi? Non ci stiamo in due. Ci stiamo. Così è 17. È troppo piccolo per tutte e due. Ho svantaggio. No, non te lo do. Ah, no, no, lo spazio è quello che è, quindi tira con svantaggio. Ops. ho tirato più alto, quindi arrivi sopra il cristallo. Ho fatto 9 di... Puoi provare ad attaccarlo. Sì, posso fare attacco incauto. O attacco incauto solo con le creature. Sai che mi viene il dubbio mentre ne parlo? Andiamo a vedere. Generalmente direi di sì. Che mi sembra che parli secondo attacco. Direi che lo puoi fare. Ma vado a vedere cosa faccio là sotto. Un breve click mi dirà che... Il make attack, no, dice il primo attacco che fai nel tuo turno. Esatto. O avrà vantaggio chi mi attacca in questo turno eventualmente. Esatto. Allora posso attacco. Qua. 12 più 8, 20. Capito. Va bene, faccio uno alla volta, non so quanto... No, ne riesce a fare solo uno perché è dovuto prenderla in corsa. Però è caricato, quindi non so se l'attacco extra dovuto al caricamento del mio top. No, quello non ce l'hai. Va bene. 3 più 4, 7. 7 danni. Mm-hmm. Ok. Posso cacciare un urlo, cioè a dire una roba a sfortuna, ho il tempo di certo. Farlo, mentre... e gli dico fai una delle tue magie, fai una passerella anche qui, sennò cadiamo tutti. Non so se può farla. Certo, una bella passerella illusoria. Vieni esatto. Che morbido. Ho pensato subito. Nessuno scriverebbe. Ma è prima tu. Che morbido. Ok. Non mi... Hey. Na na na na. Sì. Ah no. Sono tornato. Ho perso Garrosh. No, ok, io ho perso tutte. Sì, c'è stato un momento di vuoto. Avevi fatto 7 danni, giusto? Sì. Perfetto. Then, Ray, hai trovato il televisore? Forse sì. Bene. Vuoi fare qualcosa? Vuoi partecipare a questo gioco? Sì, vorrei... Non lo so, onestamente. Furtivo. Provo... sì, posso provare. Non so, posso fare i furtivi? Su Sheo, secondo me sì, non si aspetta. Su Sheo sì. Ho fatto anche in casa. Scusa, con la spada di luce di Dio sì. Posso attaccare? Devi, per attaccare in corpo a corpo o fai come i tuoi amici che ci sono saltati sopra o hai una portata di 3 metri? Acrobatics per te è un gioco da... Beh, allora sì, faccio un carpiato doppio. Salto sulla parete, esatto. Salto indietro. Se ci salti sopra, fai la prova con svantaggio perché cazzo ieri. C'è un po' troppa gente. Cazzo ieri. Tutte lì insieme. Vabbè, ma il più basso... se lo vedo no, faglio fare, dai, che ti frega. Avrà più 20. Funziona sulle creature lo sneak attack. Gli oggetti non li prevedo. Sì, vabbè, comunque ho fatto 10. Possiamo aiutarlo. E quindi ho fatto 10 su acrobatics. Cioè, 10 più niente. Cioè 10 al totale? Sì. Ma okay. Se noi ci impegniamo ad aiutarlo, non puoi evitargli lo svantaggio. Con svantaggio, rega. No, ma 10 penso che ce la faccia, però. Arrivi e scivoli. Oh, e stai per cadere. Qualcuno di noi può provare una reazione. Sì. Io faccio un calcio. La mia reazione. Volevo fare un calcio, però su Garrosh dopo. Giù. Questo non ho vantaggio. 15. Destrezza ho fatto. Tiro salvezza sulla destrezza, l'ho intesa così. Riesci a prendere Race al volo ed evitargli una rovinosa caduta. Peccato che il mio riflesso è stato col martello, quindi pam. Peccato che sia malvagio, quindi... Più che altro adesso c'è Garrosh sbilanciato, no? Io mi avvicino. Esatto. Questa è Sparta! No, vabbè. Era un colpo di scena. Strad, finalmente! No, attacco il cristallo, però stavolta con la spada magica e l'altra spada, con le spade. Mm-hmm. Quindi, il viola è la spada normale. Ok, il risultato più basso è un 18, quindi becco con tutti. Sì. e faccio ...15 danni con la spada normale e 14, 20, 22 con quella magica. 22, perfetto. Il cristallo si infrange in mille pezzi. Vedete che i frammenti che si staccano di cristallo rosso le schegge si trasformano in sangue quando vengono alla Willy il Coyote, frante, che comincia a piovere giù dalla tromba delle scale fino al livello inferiore. La distruzione del cuore blocca i movimenti della torre e l'interno di essa diventa buio. Super Hero Landing. Esatto. La distruzione del cristallo rivela il suo contenuto. La figura che avete intravisto si rivela essere niente poco di meno che il buon vecchio Byrne. Oh, non è vero. No, shock. No, shock. Tiltato. Shock. First reaction, shock. Ho tiltato, shock. Rega. A saperlo non facevamo niente. Cioè, beh, lui ecco perché lui non sapeva la... Beh, però in realtà l'aveva sentita la voce quando era venuto, però poteva, giustamente non ci aveva fatto caso. Il buon vecchio Byrne, mentre precipita, mormora improperie e maledizioni. Adi, fate la vostra manovra. Adi. Rivolte verso di voi. Motore. Adi. Notate che insieme a lui teneva, mentre precipita, tiene un discreto numero di oggetti. Il primo, il più esatto, il più vestoso. Beh, in realtà è un libro. Che schifo di persone, quello che avevate trovato nella vineria e che avete consegnato a Strad. Io lo riconosco quel libro come quello che mi serve. Riconosci che è un libro estremamente potente, ma potrebbe non essere quello che ti è stato chiesto. Quello che ho restituito al mio amico Strad. Quello che ha restituito al tuo amico Strad. E non mi ricordo se avevo specificato che il libro che cercavi era un libro degli incantati. O ti ho detto un libro a caso. Non era stato specificato. Ok. Però capisci che comunque quell'oggetto lì, anche se non è magari quello che ti hanno chiesto di cercare... Quindi poteva essere quello di Exatunder, per esempio. Quello di Exatunder? No, quello che cerca lui? Anche quello di Exatunder sicuramente potrebbe essere un ottimo candidato, ma non è la certezza, anche perché purtroppo il collegamento con il tuo patron è interrotto. Devo prendere tutti i libri che ci sono al mondo. Sì, infatti, esatto. Lì, se quello era il tuo obiettivo, cazzo. Oltre a questo libro, al collo di Byrne vi è un talismano che voi avete visto quando? Sei quello antivampiro quando l'ho preso dalla Lady Vaktar. E poi l'ho dato a Maya. Ah, era quello di Lady Vaktar, esatto. Ecco dov'era. Era già quindi abbiamo tipo fatto jackpot. Adesso ammazziamo Byrne e ci prendiamo tutti gli oggetti. Ma certo, il vostro jackpot sta precipitando a centinaia di piedi. Io sto precipitando sopra di lui. Qualcuno sa sparare le ragnatele. Ma non è finita. Sì. Insieme a lui vi è anche... un oggetto che uno di voi, che Atanas, riconosce benissimo, ovvero Isabella. La testa della sua bambola. sparava, quindi c'è anche la mia ascia. No, quella non c'è. Pezzi merda, perché l'avevo lanciata nel lago, bravo. Però c'è il simbolo sacro. C'è il simbolo sacro e c'è un'ultima cosa. Cioè, dai, non mi sono dimenticato niente. E quindi le armi mie di Vez perse per sempre. Nel lago. So, magari sono da un'altra parte. È nel lago. Lasciala, l'hai gettata nel lago. La lancia. E oltre a questo, notate quella che pensate che a questo punto supponete fosse la fonte di questa luce rossa che illuminava questo cristallo e anche tutto l'interno della torre, è una piccola pietra preziosa che sbarruccica di luce propria. Un oggetto del genere vi potrebbe ricordare uno che avete con voi. Quello dei Dio, cose. I cristallini che fanno crescere le cose. Dei vini, vino. Tu cos'hai, quella verde? Io quella una verde. Giulio, la gemma dell'infinito. L'intestino di esatto, Giulio. La gemma dell'infinito, la rossa, che cos'è? Dello spazio. Realtà. Ma io, se mi ricordo, pensavo che il libro che mi serviva fosse il diario di Strada. Io quella verde del tempo. Esatto. Doctor Strange. E anche il pizzetto. E tu, è una supposizione che potrebbe essere fondata. No, io mi ricordo che pensavo questo. Poi magari si sbaglia, però lui pensava questo dopo aver parlato, credo, con Garrosh. Gli ha parlato che aveva questo libro speciale di Strad con le cose. Quindi giustamente dici, parlando con Garrosh, ti viene quella lì, non ti viene il dubbio che potrebbe essere errato. Giustamente, sicuramente sarà così. Sì. Tipo, si vede Marco. No! Ho sbagliato tutto nella mia vita e si butta giù. Comunque sì, diciamo che anche se metti che non sia quello, come dire, se ti hanno chiesto di prendere un chilo di pere e prendi un chilo di mele, sempre frutta, cioè, sicuramente male non fa, ecco. Magari era proprio la cosa che ti avevano chiesto. Magari sei allergico, tipo. Esatto. Come dici? Non è così. Ci mettono del tempo a precipitare. Precipitano istantaneamente quando viene distrutto il cristallo. Se avessi quindi la lavagna dietro faresti i calcoli. E quindi i cari precipitanti fanno un tiro salvezza sulla destrezza. Quindi non abbiamo neanche 6 secondi per provare a inventarle. Potresti avere vantaggio perché in quanto barbaro... Ho vantaggio alle cose che vedo. Tipo trappole che vedo, cose che qui lo vedo che stiamo per cadere perché rompiamo la cosa. Cioè, lo beh, già è la prima. Evidente. Fammi feral instinct, no? Direi di sì. Cioè, lo sapevo no, anche no. Mentre lo colpivo io, era ovvio. No, feral instinct non vieni sorpreso. Sì, ho vantaggio anche. Vabbè, non mi ricordo, aspetta. Eccolo qua, contro effetti che puoi vedere come trappole incantesimi. Come si non chiama? Non devo essere accettato. Senso del pericolo, io ce l'ho in italiano, lo sai che io. Dal secondo livello. Esatto. Quindi sì. Sì, sì. Confermo. Ho il bonus di Vex? No. No, quello no. Ok. Oh, 20 naturale. Quindi, vabbè, 22. Yes. Atanas? Cosa devo fare, scusa? Un tiro a salvezza sulla destrezza. Ma, Non posso fare qualcosa con Athletics? No, vabbè. Perché non hai la competenza nei tiri salvezza sulla destrezza? No, ma tanto forse comunque il bonus a mezzo, perché sono... E puoi usare la forza come spiegazione, ti appoggi a me, mi spingi, così riesci ad andare sono dall'altra parte. Sono un remarkable athlete, quindi comunque vabbè. Remarkable athlete. No, perché è un tiro a salvezza, quindi c'è poco da darsi. Pam, 20 di dado più 4, 24. Beh, 20 naturali abbiamo fatto, paura. Bene, quindi per la legge grandi numeri, Race, quanto hai fatto? Uno. Niente. Aspetta, tiro, va là. Io atterro su... Madonna, ma ho fatto 24, ma non è possibile, ma porca di quella puttana. Ho allora, il bonus di Vez o no? No, siete usciti dopo la prima frazione di secondo, siete ben al di là dell'aura allora di protezione. Allora sarebbe un 13. Ok. Beh, non è così scarso. Ah. Ho fallito, uso Ring of Evasion. Ah, è vero che è anche quello. Scucate! Cioè? Porca cazzo, sapere che facevo questa di cosa. Vero. Beh, il Dark Power. Che miseria. E allora riesci chiaramente questo tiro è per appigliarsi a qualcosa per ridurre il più possibile la caduta. Atanas e Garrosh. Non posso fare poi... superiore landing su Bayern. Certo, puoi decidere di fare quello, ma chiaramente lì una parte di danni te li prendi comunque. Non mi interessa, è molto più figo. Volentieri, però. Va bene. E... anche perché quindi... ho visto che comunque Bayern sta precipitando con la testa della bambola. Hai ragione. Sei motivato a seguire. È bello, come tutti e tre abbiamo avuto l'istinto di come potremmo salvare Bayern. È stato molto bello. Race, la prova è superata nel senso che riesci a evitare di schiantarti al piano terra. Chiaramente ci sono gradi di successo, quindi più alto il risultato. Ma io ho evasion. Chiaramente ci sono gradi di successo, tu non ne hai. Ah, tu dici anche se becco i danni dimezzati, me ne frego. Anche se non sono danni dimezzati, me ne frego. Io non li prendo in teoria. Sì. Ce ne sono troppi di gradi, rega. Fa caldo. Hai evasion. Cioè, se uso Ring of Evasion non prendo niente. Cioè, se supero a pieno la prova, invece che prendere dimezzati, anche se dovessi per caso prendere dimezzati, non prendo niente. Esatto. In teoria. Easy. Sì. È una combinazione un po' barata. Io posso fare una prova, Madonna, rega, ho il carisma alto, per usare tipo Bayern come scudo con un vantaggio dato dal mio 20 naturale nella prova di destrezza, che in pratica ci schiantiamo, però io sono sopra di lui e lo tengo così. La tua prova eccellente ti permette di fare questo tentativo con svantaggio, altrimenti una cosa del genere sarebbe abbastanza altro che Avengers. Cioè, sì, vabbè. Sarebbe proprio una cosa Avengers, quindi sì, ci sta. Vabbè, con svantaggio. Però Athletics. Athletics, sì. Ok. Capisci però che non è tale. Fatto un 1, più 11, 12. 12. Mannaggia. Allora. Stupido 1. Quindi il volo che fate... Io non ho un inspiration, no, purtroppo non ce l'ho. Beh, con questa mossa direi che te sei guadagnata. Yay! Sta vergognoso. Ti ha schiacciato la testa Bayern. Ma tanto adesso lo uccide. Allora. Crollati. Allora dopo mi devo ricordare di schiacciare la testa a qualcuno. A caso. Quindi Atanas e Bayern precipitano e si immergono quindi nelle tenebre e svaniscono dalla vostra vista. Ah sì, perché adesso poi è totalmente buia la torre. Col bagliore all'interno. Adesso l'unico bagliore che c'è è la... Ah no, tu hai la spada di Atanas, è vero. Io sono tipo Gandalf in questo momento. Esatto. Contro il Baron. È vero. Benissimo. Quindi chi rimane su è al buio. Chi rimane su? Race in teoria anche la spada di Race fa luce. Se io, ma è... Race era sul cristallo con noi. Sì, ma lui essendo, esatto, essendo un ladro barato, anche se supera la prova di uno, non si fa niente. Essendo un ladro barato, quindi noi che abbiamo superato la prova siamo addirittura rimasti. Non era per la caduta o roba del genere. Sì, era per aggrapparsi a qualcosa per non cadere. Tu che hai fatto un'ottima prova, ti sei aggrappato quasi subito e quindi non hai preso danno. Atanas l'aveva fatta anche lui, ma ha deciso no, voglio stare con lui e schiantarmici sopra. E Race ha fatto una prova un po' più mediocre, non ha comunque preso danni in quanto un essere estremamente agile, grazie alla sua professione, quanto mi ha fregato, però comunque è riuscito ad appigliarsi diversi metri più in basso, è circa a metà strada, quindi effettivamente voi vedete la luce della sua spada, ma non è abbastanza per illuminare il punto dove adesso siete voi. Mm-hmm. Ok, e purtroppo per farvi vedere questa cosa faccio un po' di fatica perché sì, perché la mappa è in verticale, la mappa verticale è un palo nel culo. Vabbè, andiamo a quindi dovremmo usare l'immaginazione, che è questa cosa che veramente ci devi prenderti una giornata di ferie per fare l'immagine in 3D. Scherzi, un tizio l'ha fatto, però dovevo comprarmi, come si chiama, tabletop, quello che ti ho linkato, Marco. Sì però non te lo consiglio, non è granché. Quindi loro a che profondità sono ora? La tromba delle schiale finisce 190 piedi sotto dove siete voi, sotto al cuore. Io ho capito lui tromba delle schiave, poi... Quella è l'altra campagna. 190 piedi sono un'enormità, o sbaglio? No. Sì. Sono... No, in realtà no. 19 per 3 metri. 60 metri. 60 metri. 57. E sono vivi, però. No, adesso tiro i dadi e lo scopriamo. E Race, è 30... Race è 30 metri più sotto, rapato alla scala. E Garrosh è finito sul pianerottolo. Il pianerottolo che sta qua. Ma quindi vede. Pensavo stessi parlando con me. Sì. Allora, i due precipitati. Il povero Bayern prende tutti i danni da caduta, che sono 60, e diventa subito inconscio, ma secondo me è anche direttamente ci saluta. E grazie alla Atanas di mezza i danni ricevuti. Ne prendo 30. Yes. Quanti? Scusate, ero staccato. Quanti? 30. Se ne sono valsi tutti fino a lui. Sì, no, meno di quelli che stavamo. Hai ragione. 30 non è male. Un'inspiration si è una soddisfaction assolutamente alta. Sì, esatto, quindi arrivate in fondo. Quindi Barn ha preso 60 più 30 che gli ha causato lui. Esatto, quindi anche lui è schiantato, ha ridotto una sottiletta. E in più il cristallo che è diventato sangue vi piove addosso come un gavettone, quindi siete tipo... Vabbè, ma quello è tipo il bagno domenicale del solito, cioè. Esatto. È la cosa standard. Credo che in questa campagna sono state più le volte che ero completamente sporco di sangue. Questa in un anime sarebbe una scena fighissima, comunque, sul serio. L'hai visto Castlevania, Catta? Devo vederlo, cazzo. Sto guardando solo la seconda, ma sì. No, la quarta stagione c'è una scena di sangue. Ok, allora adesso vedo di recuperarlo quando avrò tempo, chi lo sa, prima o poi. E, bene, questa scena splatter triggera il flashback nel momento in cui tu ti ritrovi, diciamo, circondato da questi oggetti che per te hanno avuto un'influenza. In primis la testa di Isabel, la pietra che hai in tasca, la pietra che hai recuperato, che è caduta insieme a voi, il talismano e il diario. Questo flashback è triggerato dal fatto che sei nella stessa identica posizione e nel stesso identico point of view di quello che avevi avuto una, credo, una delle prime volte che avevi sniffato il sangue. Ah, la prima visione, tipo. La prima visione che tu vedesti proprio in quel punto lì, vedesti Bayern sopra di te. E ora è diventato un hentai. Cosa porno. Esatto, è una cosa porno. Esatto. Assolutamente. I dettagli si fanno estremamente più nitidi, come se fossi li avessi vissuti in prima persona, e in un certo senso è anche vero, e perché i tuoi occhi, che al tempo avevi ancora, erano i tuoi che hanno visto queste cose, e assisti alla scena. Bayern che prende, oh mio Dio, scena verticale, prende questi, e legge dal libro ad alta voce delle parole. Nella penombra vedi una figura che assiste alla scena, riccamente vestita, da nobile uomo che puoi intuire essere stato il conte, e mentre legge queste parole il talismano comincia a brillare insieme alla pietra rossa. E la testa di bambola che prima tiene in mano comincia a rimane sospesa nell'aria. A un certo punto da questa irrompe una abbagliante luce bianca, tanto che il tizio in disparte lo vedi che svanisce all'interno del muro al fianco di cui si stava appoggiando, ed investe il povero Ilia, sì, il flashback di quando è stato vittima, tra virgolette, di questo rituale. E questa cosa provoca un'altra visione, che appunto vede sempre attraverso i suoi, quindi i tuoi occhi, e ti rivedi, guarda caso, sdraiato per terra ricoperto di sangue nell'ultimo momento di cui hai memoria, ovvero quando eri in mezzo a questo villaggio devastato, circondato da corpi, da cadaveri, e ti vedi dall'esterno e la persona che di cui tu adesso vesti i panni ti è un po' familiare, ma è come se fosse da tantissimo tempo che non la vedi, e quasi che sai che conosci più o meno, ma non ti ricordi dove l'hai incontrato, come si chiama. Insieme a lui c'è un altro tizio incappucciato con non si scorge il volto, dentro il cappuccio è stranamente buio in modo innaturale, quantomeno invece un po' di barba bianca. E la persona che appunto da cui tu stai vedendo la scena gli chiede: maestro, è sicuro? E questa entità con una voce sovrannaturale risponde: non dubitare del grande piano. In passato abbiamo tentato con i mezzi tradizionali, ma non si può combattere il fuoco gettandovi all'interno della legna da ardere. Questa volta sarà diverso. Questa volta combatteremo il fuoco con il fuoco. E questo tizio incappucciato si china e prende una cosa da terra che riconosce essere la testa della bambola e si rivolge di nuovo a te, tra virgolette, e gli dice, ti dice: per nessun motivo dovrai separarti da questo. E ops. Tu ribatti: ma come farò a saperlo? Non avrò più alcuna memoria di ciò. Ops. E lui gli dice: le vie dell'angelo della morte sono infinite. Siamo in un bel guaio. Convinto. Siamo in un bel guaio. Sono convinto che troverai un modo. Trova un modo. Esatto. Detto questo, dette queste parole, di nuovo vedi eruttare dalla testa della bambola questa grandissima luce bianca. E poi, appunto, da lì ripartono le tue ultime memorie di Atanas. Mm-hmm. Bene. Nel frattempo, questa è la quelli che Giulio, sono quindi. Esatto. Ah, e poi ritorni al presente e vedi che stai volando verso il castello di Ravenloft e di abbastanza in lontananza. No, aspetta, non ho capito. Torno al presente e vedi voli. Tu ti vedi che è come se stessi volando. Sì. Quindi okay. Sei tra le nubi. Non è lasciato il drugo. Esatto. Cazzo, però se Giulio moriva riusciva a compiere la cosa di Vampir. Forse. Forse ci devo pensare. Oddio, avrei dovuto bere il sangue mentre di te stesso. Sangue che cola. Forse era un po' complicato. Tu che muori. Ucciso da te stesso. Devi essere ucciso da te stesso. Però devi uccidere una persona o che ama o che rispetta. È se stesso. Se stesso è l'unico. Era lui. Ah, perché è sempre lui. No, abbiamo detto che deve uccidersi lui. Lo dai bere il suo sangue mentre si uccide. Mentre muoio. Annegarti nel tuo stesso sangue. Ah, comunque bene. Capito, è tipo visuale di me che si allontana. No, vedi, stabilisci un contatto con Ilia e vedi che adesso che... Prima, mentre voi eravate giù nelle catacombe, lui si è allontanato il più possibile per farvi mm-hmm. guadagnare più tempo. Quindi sta tornando verso qua. E adesso sta venendo ad Armanfort. Okay. Bene. Nel frattempo, i nostri amici che sono qui sopra, il caro Garrosh ha modo di vedere... Il camminamento che collega il torrione con la torre più alta. Più alta. Questo posto K58 è un posto estremamente pericoloso, il ponte, in quanto all'altezza in cui siete adesso all'esterno il vento che soffia è estremamente forte. Si è disconnesso. Chi? No, ci siamo tutti. Boh, sentivo blu. E uscito. Esatto. Il vento non è abbastanza forte per trascinare via una persona, ma diciamo che se uno dovesse essere lì sopra intento magari a combattere, potrebbe essere effettivamente molto pericoloso. Detto questo, dov'è K59? Detto questo, vedi dall'altra estremità del torrione delle figure che salgono le scale. Cioè nell'altra torre, quindi. Esatto. Dall'altra parte del ponte, quindi. Esatto. Ok. In contemporanea a ciò, sopra le vostre teste sentite una miriade di diversi striduli di piccole creature pelose e volatili e un innumerevole rumore di il rumore di innumerevoli ali che battono e che svolazzano. Arriva il conte Strada, nostro amico. Ok. Che tu vuole? Gli abbiamo dato Irina alla fine, basta. Avevate giurato. Beh. Esatto. In realtà avergli fatto un dispetto. Mi sono riascoltato la puntata e Kat ha provato in tutti i modi a farci giurare, ma in realtà non abbiamo giurato. Cioè non c'è un momento in cui diciamo giuriamo. Legalmente? No, no, è vero, c'è tipo Kat che fa per quindi giurare, quindi dovreste giurare. Però tipo poi noi diciamo cazzate e quindi a questo punto lui chiede di giurare, però noi continuiamo a dire cazzate. Per questo dovreste giurare. No, era il tentativo quello di Salla, cioè, con le dita incrociate. No, io allora sì, uno è sì, è vero, Salla dice io lo giuro e tipo così. Però in realtà tipo io sono tipo lì che faccio quei moncherini, hai giurato tu per noi, però non dico ti do giuro. Sì, sì. Io mi ricordo di aver detto tipo fidati per quelle cagate che sì, una cosa come tranquillo. Tranquillo. Sì, esatto. E, però vabbè, prima che arrivino i pipistrelli avremo possibilità di fare un turno o due, no? Io posso lanciarmi giù, per dire, cioè non buttarmi, ma nel senso scendere le scale più velocemente possibile. A tua sfortuna avete una luce, se no siete al buio. Io la posso creare, però non è ancora stato il mio turno. Vabbè, però allora... sì, appena... è il turno, puoi fare tutto quello che vuoi. Ma quando mi hai descritto, quello che vedo era il mio turno, potevo fare qualcosa o era una file cinematica? Era quello, quando ti ho descritto era quello che vedi quando atterri nel... Ah, ok, era la fine del saltato. Mio turno precedente, diciamo. Ok. Sì, era come dire, quello che succede in reazione allo scoppio, alla distruzione. Vedo per ora delle figure. Ah, non capisco chi sono, cosa sono. Sono vedi che sono di taglia media e degli umanoidi. E alcuni di questi hanno degli alti cappelli a punta. Quindi c'è davvero Gandalf. Esatto. E questo che cos'è? Non c'è più. Ok. Ah, sono diverse. Ok. E adesso sta a sfortuna. Vabbè, io vedo il cristallo che esplode, poi un gran buio, il rumore del sangue che scroscia e uso luce per illuminare me stesso e la zona attorno a me. Yes. Quindi io non vedo nient'altro, immagino, perché... Non vedo niente sono perché sono talmente illuminato che mi abbaglio. Esatto. E se... No, non è così. Doppio clic su di te. Nome. Più in basso. Sì. Ok. Non mi ricordo come si dà l'aura. Scorri in basso. Persona. Scorri in basso. Aha. 30? Ok, con l'attuazione 15 luce. C'è un botto in realtà. E riprendono a vedere. Beh, sembra un po'. Yes. Però la torre è molto alta, quindi io non vedo niente di quello che succede. No, 20. Riesci piedi, però. Ah, 20. Internet. Dice. Ah, sarebbe 20 di. Luce. Come si dice? Fioca. Luminosa e altri c'è fioca. E quindi ai, no, ai tuoi fini si può considerare anche il 40. Oh! Allora, adesso vedo i tizi che stanno salendo. Li hai illuminati a giorno, tipo. No, a giorno no, perché no, sono no, i primi venti. No, giorno luce. Sono 20 piedi. Falso, scherzando. Però scuro visione, remember. Quindi a te cambia relativamente poco. Sì, 20 più 20. Quindi io vedo sta gente che sale. Un'ora. Tu raggiungi Garrosh e vedi che da queste scale sta salendo sta gente. E nel frattempo senti lo sbattere d'ali dal piano di sopra. Inizio a scendere verso il basso per vedere cosa è successo agli oggetti magici. Giusto, le cose importanti. Arrivi fino a qua. Beh, no, non posso lanciare altri incantesimi, quindi va bene. L'hai lanciato. E dico, Vardy, sta arrivando qualcuno. Ok, Vardy, sfortuna, condivido un'informazione con te. No, cosa hai detto, scusa? Stavo perdendo. Mi hai detto? Cosa mi ha detto? Arriva qualcuno. Ok, no, pensavo qualcosa di più rilevante. Beh, oddio, mi sembra abbastanza rilevante. Arriva qualcuno, sì, però andiamo a vedere come stanno gli altri, presto. Scendiamo. Scendiamo, sì. Ma... Arriva un piccolo esercito. Scusa, dovresti affrontarli lì dove il loro numero non conta nulla. Sì, ho capito. Non già. Sappiamo te e l'altro stronzo che fine avete fatto. Mi secondo. No. Potrei mandare tipo giù il mio Ratbat. Cioè, aspetta un attimo, con la luce di sfortuna noi vediamo Race e Garrosh. Race? Sì. Race lo vedete, Garrosh lo vedi. Sotto da quello che ho detto. Giù non vediamo. No, tu sei a metà strada della torre, sei 30 piedi più sotto. Finto. Beh, lui lo raggiungiamo. Non saprei quanto, perché fare un giro della spirale ci si mette. Vabbè, ho capito, dai, cioè, sono successe 50 cose, avremo diritto a tipo un paio di turni. 15, 30... 45, cioè, nel senso, noi siamo paralizzati da qualche incantesimo, ci possiamo muovere nel frattempo che succedono 36 cose. No, non è successo, cioè, quindi ci possiamo muovere. È successo sì, hai la tua, adesso tocca a te e puoi fare quello che vuoi. Scendo giù al hai massimo della doppia velocità, scendo giù la scala. La doppia velocità è che ti butti a pesce. No. Io posso fare due movimenti. Puoi farlo, No, posso fare due movimenti. 15, 30, 45, 60. Vedo un coso in armatura pesante che mi sprinta davanti. Esatto, dico, segui, che ti sorpassa a tutta velocità. Segui, andiamo a vedere giù. E questo era Atanas. No, questo era Varvist. Garrosh. Io guardo sommariamente intanto così. Quindi io cosa ho sorpassato? Ma io sono lì sopra, vezzi. Cioè io Garrosh l'ho sorpassato, giusto? Sì, l'ho sorpassato. Okay. Ma di mo, io vezzi sono lì sopra, Garrosh. Sono dal culo. Sì, sì, ho capito, raga, sono dei miei gli amici che sono caduti giù, vado a vedere come stanno, scusate. Io intanto vedo cosa davanti, prima di decidere cosa fare. Adesso li vedo cosa sono. Sì, riesce a scorgere più dettagli e noti che sono questo gruppo di signore anziane, molto molto anziane, con dei lineamenti particolarmente brutti e pronunciati. Ho capito, sono i clienti delle 8:30, sì. Cosa? Hanno delle lunghe dita, con delle unghie acuminate e si portano con loro delle scope. Ah, è arrivato il turno delle pulizie. Esatto. Vabbè, direi che sì, se vedo che tutti scendono, affrontarle da solo sarebbe stupido, per cui con il mio 10 di saggezza decido di scendere. Okay. Quindi tu ti muovi di 70. 30. 45. 60. Se vuoi corro più veloce, sfrutto la centrifuga e la forza centrifuga e corro sull'apparecchio. Però così faresti il giro più lungo. Sì, però vado più veloce. Quindi sei a livello, per scrivere qua, draw shape, meno uno. No, shape, free hand, eccolo qua, meno uno. Quindi metterò un... Adesso ti prendo e ti copio. Ctrl V. Ti ho copiato? No? Ctrl V? Ok, troppe volte. Siamo in tre adesso. Ok. Garrosh. Guardi, strani. È ancora qua su. Eccoti qua. Sfortuna è poco dietro Vardistan. E resto dove cazzo è? Ah, ok, è giù. Quindi una rampa di scale fai 10 piedi. Quindi i nostri amici sono a livello meno 19, Atanas e Bayern, o il suo cadavere almeno. 19. Supponiamo quindi che Ray si sia pigliato a livello intermedio, quindi sarà meno 10, a metà della caduta. Ed è 30 piedi da noi, in verticale. In linea d'aria, sì, in verticale. State scappando da un esercito di streghe. Se non farti venire la bella idea di uscire arrampicato intorno da una finestra. Tan tan tan tan. Beh, secondo te lo fa? Che cosa? Se ne va. E Giulio adesso esce e rientra da una finestra arrampicandosi. Perché? È la mossa Kansas City. È la mossa Giulio. Certo. Perché lui niente. È la mossa, infatti, la mossa delle finestre dall'esterno. Giulio. Julius. This is Julius Time. Quindi l'ultimo rimasto più in alto è Sfortuna. Sfortuna sente avvicinarsi uno stormo di pipistrelli che ti piombano addosso. Metto la mascherina. Quello potrebbe essere un'ottima idea. Preparo la zuppa. Esatto. Allora. Ah, ok, fa il suo... come sti smordicchiano. Ok, quanto hai di classe armatura? Molto poco, molto, molto, troppo poco. Che si traduce in... 14 di questo. Adesso guardo esattamente il valore appena mi apre la scheda. 14, sì, ricordavo bene. Ok, i morsettini dei pipistrellini ti fanno due danni. Devo tirare costituzione per qualche strana patologia? Luce non richiede così concentrazione. Il Covid... No, per le... Barovia. Ah, il Covid... Dei... Cioè, la variante Barovia. Esatto. Quindi adesso ho 7 punti ferita temporanei. Non più 9. Mm-hmm. Ok. Pipistrelli, Race. Allora, io adesso cosa vedo dopo che è passato tutto sto casino? Vedi sopra di te i tuoi amici e illuminati dalla luce di Sfortuna e il povero Sfortuna che sta avendo circondato da uno stormo di pipistrelli, da uno sciame di pipistrelli. Vabbè, quello... Poi sotto di te ci sono... vedi in fondo il tuo amico Atanas che è appunto al centro di questa pozza di sangue e illuminato da questa fioca luce spettrale rossa. Ok, allora scendo, posso scendere easy o da lì? Per arrivare dove sta Atanas? Atanas è una trentina di piedi sotto di te. No, sto dicendo una cazzata. Una trentina di metri sotto di te. Perché l'altezza era 190. 190 piedi e tu sei a metà. La metà di 190 fa... Sono... No, aspetta, però non mi posso buttare, ma posso srampicarmi di sotto. 95 piedi, facciamo... Vabbè, 100 piedi non mi aiuta neanche, sono 30 metri, sì. E 100 piedi sotto di te... Per scendere il modo più veloce possibile sarebbe buttarsi, ma chiaramente questo vorrebbe dire prendersi danni questo da caduta. Non lo faccio. Puoi correre giù come un forsennato seguendo la spirale delle scale, oppure, ma è una cosa abbastanza rischiosa, saltare da un lato all'altro, dal piano superiore a quello inferiore. Sì, dai, questo mi piace. Va acrobatico bene. Acrobaticizza. Madonna rega, se faccio un altro 4 esco. Dai, quindi cosa fa? Si butta. Bambo! No, bellissimo. Ma quindi si è buttato. Madonna che sfiga. Puoi atterrare su Giulio che è atterrato su Bayern. Vabbè, in totale ho fatto 6. Aspettavi, arrivavo io. Vabbè. No, che ha voluto provare a saltare da un... Abbiamo perso Sceo? Sì, ci siamo persi. Adesso... Per un attimo ho perso Sceo. Mi sentite? Sì. Adesso sì. Non vi ho mai perso, in realtà. No, dicevo a Vez che ci sta con le sue abilità, saltare da un lato all'altro per scendere più in fretta, la figa ci sta. Però ha fatto fumble. Però sì, è fatto fare purtroppo, però vabbè, quindi la fretta... sfiga oggi va vabbè, così. Più in fretta di così non credo che possa scendere. Esatto. No, infatti è di mezzi la distanza tra te e Atanas. Lo skyline dalla finestra. Atterri malamente e ti infliggi 15 danni. Ma porco il cazzo! Oh, Evasion di stronzo. No, no, potrei usare un po' di usare qualcosa, ma... Vabbè, ma tanto dei 13 punti ferita temporanei dati da Marco. Ah, quindi... vabbè, allora, easy. Ma è come Worms, cioè se cado rovinosamente non posso fare altro o posso fare altro? Mio signore. Ah, è vero, perché prendi danni e quindi il tuo turno finì. No, in questo caso... considero che tu abbia finito anche il tuo movimento, tu dici ho anche la mia azione bonus, e puoi usare anche la tua azione bonus. No, beh, hai anche quello. Mi muovo verso Atanas o mi rialzo se sono caduto, ci sta. Ah, riga. Sì. Ti rialzi. Cos'è? 10 meno 10 meno 5 sono 19. Sono i piani. È il master che dà i numeri. Sono le equazioni. Esatto. Allora, le tizie che Garrosh aveva visto attraversano il ponte. Ma c'è il vento, Infatti, vanno un po' pianino. Un conto se li affrontavamo lì. Ma eravamo in tre, cioè metà gruppo praticamente, era complicato rimanere lì subito. Beh, sarebbe potuto salire anche tu eri lì, cioè ti mancavo io, ma... che vabbè, sei salito piano piano. Ma che ne so, magari sei morto per noi, Noi non sappiamo bene come sei caduto. Superhero landing. Poi siamo tutti preoccupatissimi per Ban, come vedi, quindi... Beh, io sto correndo a differenza vostra. Eventualmente infierire. Le prime due puntano le loro dita scheletriche vizzite contro Sfortuna. E sono, da questi mi vedono, partono. Sono immerso nei pistrelli, come fanno? Basta che puntano al centro della nuvola di pipistrelli. Oh. Sanno che vanno sul sicuro. E partono due raggi di gelo. Sono 8 streghe? Sono 7. C'era una di... Sono 8, Katta. Ok, adesso sono 7, prima erano... Vabbè, non è che sia... Ah, adesso è facile. Sono 7 streghe. Sì, il concetto è un po' lo stesso. Danzano le streghe di Gabri. Ponte, le streghe sul ponte, basta. Vedere, wow. Tu avevi 14 di classe armatura. Ma fondamentale adesso. Ok, i due raggi di gelo ti colpiscono e ti infliggono 10 danni. Aspetta, dico... Ah, vecchiate, non mi colpirete mai. Bravo. E riduci loro tira. Sì, volevo cercare di... quello di uno perché posso farlo un turno. Quindi tiro un di 6, vediamo. C'ho il danno. Minchia, anni 90 proprio. Dai culo. E dico di 4. Riduci di 4. Uno ti manca e quindi ti infligge solo 5 danni. Dai, quindi rimango a 2 temporanei. Questo sfortuna. Questo tipo di musica una volta la facevano nei locali chiusi dove la gente ballava, vi ricordate? No, perché in realtà in questa stagione andava comunque all'aperto. L'unica cosa buona della pandemia, cioè. No. Ho un modo di prendere i pipistrelli. Ho un modo di prendere un pipistrello senza prendere me stesso in un raggio di palla di fuoco. Uccidile tutte ora che sono lì. Palla del fuoco. La danza delle streghe non porta mai sfortuna. Qua devi fare 3 palle di fuoco, Marco. Se non le fai, sei fuori. Il raggio è di 20. Riesco a far tipo così e prendere il pistrello, ma non me stesso. Per farlo ti basta fare un passo indietro. Un passo indietro? Sì. E prendi però anche le streghe. Sì, sì, prendi tutto. Dai, spazza via finalmente. Sì, ma prendo l'attacco di opportunità. L'attacco di uno sciame di pipistrelli. Cazzo, te ne frega, dai. Così fu un 20. Critico. Al massimo te proprio sculo come un pazzo, faccio 8 danni. Dai, Marco, per favore. Dai, scula come un pazzo, cazzo. Sentiamo. Vabbè, mi muovo di fianco a Vardistan. Ok. Cazzo, di fianco a Vardistan. Lo sciamo ti fa un attacco di opportunità e ti manca. Fai un passo, casti e poi vai di fianco a Vardistan. Sì, è quello. Beh, che è differente. E facciamo sta palla di fuoco, vediamo. Boom. Allora, mi servono un po' di dadi da 20. Allora, cosa hai tirato? Sotto media, 22. 22, ok, la cui metà sarebbe 11, vediamo se superano il tiro salvezza che è 16, ecco, è aggiornato. Che schifo è? Vediamo. Spara di poco, anche sono super. 8 di 6, non sono 10. Che belle queste immagini erotiche di Katta che muovendo il braccio può uno può immaginare tutto quello che vuole. Oh yeah. Perché poi essendo il master che sta tirando da Cold, cioè, che fa godetti, capisci? Quindi la faccia è quella. Dove sono le palle di fuoco che faceva Ema tanta danni? Massimizzate. Era la 3.5. Era la 3.5. Lui c'aveva mita magia. Che con il suo roleplaying massimizzava. Massimizzate, altizzate. Qualunque cosa è roleplaying. Se io massimizzo, prendo come talento la possibilità di massimizzare. La roba tipo superpower player a un certo punto. E tipo, però la voleva giustificare. Sì, perché si sentiva in inferiorità rispetto al mio personaggio. Ma già aveva fatto una roba assurda. E infatti era riuscito a fare che con un attacco faceva uno sborrello di danni. Solo che io facevo uno sborrello di danni con tutti gli attacchi. Bravo, ma bel colpo. Mi ha fatto traviare. E uso 5000 punti psionici per far fare Ema 10 danni in più. Sei contento, Ema? No, era così, tipo uso 3 punti psio per fare 200.000 danni. Sì, sì, no, no, spesso era uso un punto psione e all'avversario esplode il cervello. Era così. No. La maggior parte era per evitare i danni. Praticamente gli si spappola il cervello. Quattro stagioni? Quattro streghe e i pipistrelli vengono inceneriti. Oh! E i loro corpi. Ok. E i corpi delle streghe vengono spazzati via dal vento e dispersi nel corpo. Nel sangue, nello spirito. Domanda, io non le ho, altre io tre superano il tiro salvezza. Non direi perché. Sì, hai saltato il turno. Devi giocare anche tu. No, io comunque l'unica cosa che faccio è che visto che avrò fatto sarò un po' ancora in balia sulle pareti. Esatto, in balia delle visioni, mi avvicino, recupero la prima di tutto la testa di Isabel. E poi tutti gli altri oggetti e guardo come è messo Bayern. È messo molto male, non dà cenni di vita. Faccio una prova di medicina per capire quanto è messo male, quanto è morto. È abbastanza dopo morto, fai la prova di medicina. Il mio più grande amico, decidi le tue priorità. No, prendo gli oggetti. No, per me è ok, allora forse dopo la potrei fare. Vardistran. Oh, altre due non ho finito. Ah, catta la pietra, scusa, la... scusa, sfortuna. Perché la pietra e la testa li metto, me li prendo gli altri oggetti, poi li darò agli altri. Sì. Tutto con la benedizione dell'oscuro sire. Io recupero dei punti vita temporanei, vado a carisma più livello di warlock, quindi corretto. Vado a 10 punti ferita temporanei. Oscuro è il signore. E dopo uso Misty Step per andare giù più che posso e lasciare Vez dietro di me prendere il fuoco. Ah, aspetta, Misty Step è un incantesimo che si lancia in azione bonus, quindi lanci quello, lanci Pala di Fuoco. Sì. È una triste storia. Ma scusa, lancia un'altra palla di fuoco dopo sulle streghe rimaste. Come mai Marco non scappa? Ma non spiego tutti gli incantesimi di terzo livello per le streghe. Vabbè, spara il Witch Blast, dovrebbe bastare. Come mai Marco? Sì, ormai sono quasi morte dietro, lo sai. Mi butto giù. No, non lo fa. Vedi, in questi momenti. Sì, che vabbè, ok, non posso fare niente. Featherfall. Come si chiama in italiano Featherfall? Piuma cadente. Caduta morbida. Non so. Caduta morbida. No, feather non è la piuma? Sì, è piuma. In inglese si chiama. Non so come l'hanno tradotto in italiano. Caduta di piuma. Esatto. Ok, Svardistran. Svardistran. Razzo giù due movimenti, per favore. Ok. Quindi arrivi, per semplicità, almeno due. Quanto mi manca? Oddio, ho tecnicamente saresti mentre qua due piani sopra. Io suono come brother, come join me. Comunque l'hanno tradotto con cadere come piuma. Cadere come piuma. Come piuma, capo. Terribile. Cadere come cazzo di piuma, capo. Cadere come piuma. Caduta, esatto, di piuma. Ok, io scendo. Bello. Arrivi al livello meno 2. Ok, che non vuol dire un cazzo, non vedo niente, cosa vedo? Niente, perché sfortuna è quello che fa la luce. Fortuna è quello che fa la luce. Vedi, sì, vedi la luce di Race che sta meno 2, questo sarebbe meno 15, che sta 13 piani sotto di te. È lunga da fare facendo tutto il giro intorno. È lunga anche cadendo come un sacco a tappe, ma è ancora più lunga camminando. 13 Garro. Piani. Ho supposto che un piano è di 3 metri. Io ho malappena visto che c'è stata una palla di fuoco di sopra, ho intuito malapena. Con fuoco e continua a scendere. Ok. Arrivi. Con la musica la senti comunque, Garro. Sì. Continua a scendere. Sì. Continua a scendere più velocemente caricato dalla musica, perché quando si va a correre la musica aiuta, quindi. Esatto, aiuta un sacco. Ok, i pipistrelli quindi sono morti. Tornate dietro. Race, cosa dei fai? I codici malvagi che siete. Allora, effettivamente Arcanus giusto. Arcanus cosa ha fatto? Ha raccolto le cose che c'erano per terra. E basta? Volevo sapere vedere come stava cose. Bayern. Ma... Bayern è morto. Non dà segni di vita. Allora vado lì e lo resso. Ma che twist è, rega? Ma che twist è questo? Va resuscitato proprio. What a twist. Cioè, sprechi la tua unica resurrezione per restare. Bah. Sì, no, sei non è una sola. Io sono buona, non come buona. Come sei buono. Davvero. Come umano, quasi più sprecata delle ispirazioni diverse. Come umano, lei. Invece è un gran tanta roba, Salla, bravo. No. È solo una? No. Sì. Sì. Ho capito, lo resusciti per farti curare. Non hai tre teschietti? No, quello è Marco. Atanas adesso non lo uccide di nuovo. questo potrebbe essere in effetti. Chi lo sa? Anzi, ti ringrazia così lo può riuccidere. Ti ringrazio. Grazie, perché una non mi è bastata. No, perché l'altra la prima volta non l'ho assaporato. Cioè, la prima volta siamo caduti. Troppo immediati, hai ragione. Sì, ne hai solo una, ma ti serve tutto il tuo turno per arrivare da Bayern, quindi... Ma che palle! Cioè, una volta che voglio fare una roba... Adesso non so, succede qualcosa. Se ci sono ancora buttati 12 giù. Metri di... Buttati giù. Ma sono già giù. Non sei tu sei almeno 15, loro sono almeno 19. Ci sono ancora 4 piani tra te. Dai, fai un acrobatic per i 4 piani, dai. No, sì, adesso se mi dici in che modo scendi, vediamo quanta strada fai. Acrobatics. Prova l'idea di prima. Saltello. Solito uno. Sì, salto sui piani. Fai un... E faccio... Oddio, svedese. Faccio 21. Arrivi dai tuoi amici. Detto anche Ikea. Madonna, davvero. Quella era un'azione e non può farla azione di resurrezione. No, quella era un'azione, era il movimento più il movimento bonus. Hai ancora un'azione. Oh, resto Bayern. Salla, come funziona la resurrezione? Salla maggiore catta. Aspetta. Come parli però. Resurrection. Bayer Action. Ah, purtroppo è proprio morto di vecchiaia mentre stava precipitando. Vabbè. Sì. Fa culo. Cazzo, se non lo volevi usare non dovevi farlo vedere. No, nessun problema. Volevo solo controllare se lui deve essere consenziente e soprattutto pensare se Bayern lo è o meno, che questa è la cosa più difficile. È morto, che consenziente è? No, vabbè, quando fai resurrezione su di uno, l'altro, esatto, lo spirito deve voler tornare. Come funziona il bardo? Devo scrivere play e la canzone? Sì. Punto esclamativo, play e la canzone. O metti direttamente il link. Okay. Come direttamente il link di YouTube? Ah no, non l'ho cercato su YouTube. Posso scrivere qua, la cerca lui? Sì. Però non sai se è sicuramente quella che vuoi. Non ci sono molte canzoni che si chiamano Resurrection by Erection, secondo me. Ok. Bayern risorge, si alza e cammina. Ma magari non era morto. No, era morto. E fa un infliggi ferite di quinto livello su Zanzara di merda. E devo tua sorella puttana. Vieni qua. Niente, dovrebbe essere puttanella. Perché non parte? Perché avrei sbagliato qualcosa? No, l'ha trovata, ma non parte. È tipo perché, è stata aggiunta. Aspetta. Ok, sono Marco. Bravo. Non sta partendo. No. I'm dead. Aspetta, okay. Però. Okay. Dove sta? Perché Dono dice puoi lanciare resurrezione. Però adesso sto leggendo un riassunto. Spero dica puoi lanciare resurrezione come fosse un'azione. Perché altrimenti il tempo di casting time è un'ora. Perché? Vabbè, però. Quello la traccia è rotta. Vabbè, Katta non lo resuscito, vaffanculo. Dai, mi spiace. No, aspetta, fammi controllare. Aspetta. Perché non la fa? Sì, guarda, no, vedi, perché lo puoi fare con una. Sì, sì, lo puoi fare come con un'azione. Tu tocchi una creatura morta e viene riportata in vita. Perché stavo leggendo. Perché alla fine ci vuole bene. Stavo leggendo un riassunto e dice puoi lanciare resurrezione. La resurrezione dura un'ora. Invece il dono dice con un'azione. Poi fai resuscitare qualcuna e l'effetto è identico all'incantesimo di resurrezione. Non è che lanci risurrezione, ha lo stesso effetto, che è una cosa diversa. Sei supremo. Ok, il beneficiario di questo dono, esatto, ha l'aspetto di un cadavere, quello. Ricordandosi i vecchi tempi. Esatto. Ok. L'ho già. Bene. E ha tipo un sussulto, torna in vita, ma è ancora scosso. Per il futuro, chi viene risorto è traumatizzato e ha meno 4 a tutti i tiri per associa meno 4 a tutti i tiri. Tutte le volte che finisce un long rest questa penalità si riduce di 1 finché non scompare. Ascolta una cosa, Katta, la cosa più importante, può ancora fare manovre? Le può fare, ma ho meno 4 finché non finisce 4. L'importante è che posso fare la mia manovra. Sì, sì. Questa cosa, aspetta che me la devo segnare, allora. Muoiono. Risorgono. Baern. Il dono di Zudun. Giulio, tu questi li conosci? Sì, Power Rooms. Ok, e questo era Race. Ora tocca ad Athanas. Che fa talmente caldo che mi sta esplodendo il telefono. 80 gradi. Ma il mio Mac vecchio sta crepando. Devi cambiare computer. Quindi Bayern che è di nuovo vivo lì. E c'è Reigns di fianco a me. Sì. Lo uccido. Ok, no, cosa è successo agli altri? A me lo chiedi, sì. Chi dovrebbe? Tu sei uno di sopra e stavano scendendo. Ok, e perché ci sono stato sceso per vedere se potevo. Se lo sai, se no no. Okay. Cioè, intendi quelli adesso o quella per cui è cascato tutto? No, quelli adesso. Quando ho distrutto il cristallo e siamo caduti, cioè, ho presente perché è successo. Non lo so, io l'ho visto lui che faceva cazzate. Ma tanto devi rispondere in maniera evasiva, quindi dico il cazzo che direi che lo stai facendo egregiamente. Lo stai facendo apposta. No! Dai, Sala, mi sei giocato così di Inspiration, cazzo. Quando i PG oddio, questa perfetta. Potrebbe essere una vera Inspiration genuina. Esatto. Più di così. Non lo so, io stavo seguendo i rumori qua sotto. Ok, perché hai resuscitato? Vabbè, in effetti è inutile che ti chieda di cosa. Ok, va bene. Raggiungiamo okay. Gli altri allora. Sì, è Bayern. Credi che possa camminare o dobbiamo trascinarlo? Ma in teoria io so resurrezione, ho qualche competenza arcana. No, più che competenza arcana, questo è proprio il potere oscuro che ti ha dato il tizio del sarcofago. Scusi, ti aveva detto dire, riesce a camminare? Lui ti risponde, tipo, si gira sul lato e fa... vedi che è molto cervelli. Provato. Ok, lo prendo come no e lo trascino. Va bene. Puoi prenderlo in braccio? No, lo trascino. Saliamo le scale. Lo trascino per i piedi. No, lo prendi per le narici. No, lo prendo per un piede. Però in modo che stia faccia in giù. Ma quello è indifferente. Anzi, in realtà è peggio se sta faccia in su, perché così becca... Ad ogni gradino sentite... Tunk, tunk, tunk. Che è la testa di Bayern mentre sale le scale. E quindi salite al piano 18, salite, sì. Iniziate a risalire le scale. Ok. Tocca alle streghe. Le streghe vedono sempre solo sfortuna. E cominciano a sparpagliarsi, uno va verso destra, una va verso sinistra e una verso il centro. Tutte e tre tirano un raggio di gelo. No, prima una tira. Ah, sta a vedere perché l'avevo già chiuso. Che albero c'hai comunque? Beh, c'è solo lui, poverino. Madonna. Quindi quella che va a sinistra però in realtà va verso l'alto, giusto? Sì, un pochino sì. Oddio. Ma stanno volando. Che prontezza. Salute. Grazie. Non stanno volando. Per quanto abbiano delle scope con loro. Io in realtà adesso sto ritornando su con Bayern solo per buttarlo di sotto. No, non è vero. Allora, cosa devi fare? Forse è più fresco fuori, non so. Ma c'è un casino bestia se apre la finestra. C'è un ristorante qua davanti. Ok, sempre dalle loro dita lunghe e nodose escono questi raggi di energia verdi che portano con sé delle energie. La finestra è totalmente spalancata, non cambia un cazzo. Tra l'altro io ho tutto aperto. Energie malevole. In teoria di là, ma... Uno solo. Aria calda che si sposta da una stanza all'altra. Non mi prendete mai. Vuoi convincerlo a deviare? Ma Marco, tu no. Stai cercando di rubare la dentiera a queste signore anziane? Infatti ce l'hanno con lui. Niente. Beh, uno dei cadaveri potresti prenderlo dopo. Uno dei raggi ti colpisce se non hai nulla in contrario. Sti cazzi, ti infligge 15 danni da veleno e devi fare un tiro salvezza sulla costituzione. E la madonna. Che 11 più quant'è il mio salvezza? 11 più 2 13. Ok, l'hai 15 danni, quindi tutti e 10 i miei punti ferita e perdo 5 punti ferita. Cioè, ma è un tank sfortuna. Tocca proprio a te. Ok, posso usare come reazione Hellish Rebuke a quella che mi infligge danni? Direi di sì. E mi faccio tu e faccio fiamme che compaiono per 9 danni. Tiro salvezza sulla destrezza per dimezzare. CD? 16. Fallisce. Su quale l'hai fatto? Su quella che ti ha colpito, giustamente. Era lei. Muore. Quindi guadagno altri 10 punti ferita temporanei. Yeah. Ok, e adesso inizia allora... il tuo. Raga, lo lasciamo sempre da solo. D'ora in poi. Inizia il tuo turno adesso. Quindi prendo le mi apro la giacca, mando il gufo a usare la help action per darmi vantaggio e uso Eldritch Blast. Tira per colpire. Quindi 10 e 16, quindi con un più 8, quindi 24. Vantaggio. Colpiscono entrambi, tirali separatamente. Quindi primo 2 più 4, 6, secondo 10 più 4, 14. E le seghi entrambe. No, è stato lo sfortuna show. Potrei farlo salire di livello. Oh. Di merda. Ok. Merda, allora riuccidiamo Bayern così saliamo anche noi. Cosa hai detto? Allora, Bardistran... vado a prendere una scopa visto che non c'è più nessuno qua e vedo se vola. Okay, quindi torni su. Ti butti giù con la scopa per vedere se vola. Mi sembra un ottimo piano. Faccio ready Misty Steps. Cosa potrebbe mai andare storto? Percare così. Esatto. E, arrivi a prendere la scopa e finisci il tuo movimento sopra il cadavere di una di queste streghe. Strano, tocca a te. Rubagli una dentiera. A livello di visibilità qual è la situazione? Non capisce la parola livello, Katta. Cambia la frase. Per quanto riguarda l'illuminazione, com'è la situazione? Vedete che ora venire... uno se n'è andato e l'altro è ancora giù. No, avete ancora la luce di sfortuna che vi illumina. Vabbè, io faccio due movimenti e scendo. Mm-hmm. Ok, arrivi dove sta Garrosh. Almeno tre. Cioè abbiamo fatto solo tre piani? Con due movimenti? Sì. Non c'è più uno scontro, possiamo andare fuori scontro per ora. Beh. No, va bene, che cosa intendete fare? Vi riunite a metà strada? Quelli sopra salgono? Sì, scendo. Fare 19 piani in scansione round. Sì, dai, l'idea è di incontrare, di scendere. Sì, magari ogni tanto caccio anche un urlo, come va? Tutto bene là sotto? E tu, in teoria vedete una luce che e voi streghe? Sale. E voi streghe state bene? A posto? No, anche a sfortuna gli cacciamo un urlo, magari ci dice va tutto bene, le ho fatte fuori, cazzo, non so se rispondono. Io, dopo aver esaminato la scopa, posso tirare qualcosa per esaminarla? Arcana. 12. È una normalissima scopa. Allora, in preda alla sindrome dell'abbandono, tolgo la luce e uso l'illusione per mimetizzarmi nell'ambiente. Ok. Silent image per mimetizzarmi. Sì, perché? Perché così non sapete che fine ho fatto. Ma perché? Ma perché mi avete abbandonato? Ma perché? Ma io non ho abbandonato nessuno. Rega, io sono sfortuna. o è Marco, vabbè, non lo so. Io nel frattempo salgo, quindi immagino che ci incontriamo a un certo punto. Sì. Ok. Dai, quando vi vedo io tipo dico Atanas, Bayern. Cosa quindi fa tipo 19 piani, tunk, tunk, tunk, la testa di Bayern. C'è Atanas, Bayern e me mi ignori. Esatto. Eh no, però te t'ho visto aggrappato a un certo punto, mi sa. O no? Sì. No? Allora anche Race. Sì, tra l'altro in realtà vedi Race e io che camminiamo, e poi in realtà Bayern è un... Cos'è successo? Lo sto trascinando io da un piede. Tu state bene? Cosa è successo? Ma il matrimonio a che ora si riceverà? Ecco, con me tipo fai così, invece prima rispondevi comunque pezzi di me. Beh, oddio, rispondevo. No, no, non è stata una brutta risposta comunque la sua. Appunto. Comunque dico, Bayern è qui e lo spingo avanti ai piedi di Barlistan. Ok. No, lasciate, mi metto all'altezza di Bayern e gli dico, adì. Adì. Credo Bayern. Che sia stato fai la tua manovra. Bayern, era sei morto. Tu. Quasi non ti riconosco. Sembri più morto che vivo. Vabbè, cos'è successo? Siamo, raccontaci tutto. Coperti di sangue. Cosa ti ha fatto il conte? No, è anche morto. Ti dico una cosa, forse questo è meglio che lo abbia tu. E ti lancio il medaglione. Pensavo Bayern. No, beh, prima io ho lanciato Bayern. Adesso hai il mio simbolo. Sì. No, pensavo al medaglione di... No, io in verità ti lancio il medaglione di Lady Vaktar. Ah. Poi ti dici, al mio simbolo, io dico, ah già, e poi ti do il tuo simbolo. Grazie, anche... Grazie, Atanas. Sei... Questo per me è più importante di qualunque oggetto magico. Tuttavia io terrò molto stretto a me questa arma. Più bravo. Ah, ecco. Mi sembrava. E no, Bayern, ti prego, dici tutto. Ora. Lui, cioè, ansimante e mezzo... Sì. Mezzo morto, ma raccoglie le forze per poterti rispondere. Se ha bisogno gli sparo 5 PF. Vuoi il 5 PF? No, non è questo di PF. È che essere resuscitati. Esatto. Essere resuscitati, anche se sei tra virgolette in salute, ti impone una condizione di affaticamento e di. Come dire, sì, ok, di stanchezza che Ma se sta raccontando va bene, dici tutto. No, non ti racconta niente, dice ci ammazzerete tutti, lasciatemi andare, folli. Ma vaffanculo, eri morto, dove volevi andare? E... vabbè, gli tiro uno non schiaffo. Non sapete quello che state facendo. Gli tiro uno schiaffo, gli dico riprenditi, il tuo dio ti ha forse abbandonato? E mio gli Dio. Faccio un persuasion, un Gandalf, per persuaderlo di che cosa? Che ci dice? Beh, che cazzo gli è successo, dici. Per favore. Oh, 14 più 7 è 21. Mm-hmm. Io me ne stavo lì, avevo trovato il modo per uscire da questo inferno e voi siete venuti qua a rovinare tutto. Mi avete condannato, ci avete condannato tutti. Stavo adesso per noi. Esatto. Adesso ci attende solo un'eternità di sofferenza. Donna, solo era così legnoso anche prima. Donna, sì, in realtà sì. Forse in modo diverso. Sì, in modo diverso. E quindi sì, è molto adirato con voi. Adirato. Bayern. Tu ci hai abbandonato. Raccontaci tutto. Ricordi che ho fatto voi avete infatti ti sta raccontando. Voi avete abbandonato me. Avevo trovato un patto, un accordo. Mi avrebbe salvato e me ne sarei andato da questo schifo di terra. Chi ti avrebbe salvato? Non pronunciare il suo nome, folle. Siamo nella tana del lupo. Ti sta riferendo al conte, ovviamente. Fai il finto tonto. Se hai pensato di fare un accordo con lui, sei tu il folle. Beh, chi di folle ferisce, di folle ferisce. Ah, non puoi giocare a questo gioco del folle con me. Esatto. E potrà anche darsi, anzi adesso sicuramente, se per via delle vostre, delle conseguenze delle vostre azioni, nemmeno periremo tutti, sarebbe una liberazione la morte. Saremo chiusi in una cripta a soffrire in eterno. Vero. Ma io ti avevo liberato. Purtroppo qualcuno ha voluto rimprigionarti. Ah, ma si può porre molto facilmente rimedio e cerca di buttarsi di sotto. Vabbè, allora, vediamo. No, lasciatemi andare. Uccidetemi. Fatemi fare la mia opera. Ma non è imprigionato lo stesso, ma se muore resta Banovi. Qual era il tuo accordo? Qual era il tuo accordo? Non rimarrebbe qui comunque. Vabbè, ma almeno non lo fa soffrire la fame. Il tuo accordo era, se l'avessi aiutato a controllare quel ragazzo, mi avrebbe lasciato una volta che... E come facevi a una volta ottenuto... Mi ha dato quel libro, dentro c'erano delle parole strane che mi ha insegnato a leggere, e tramite quello e il potere che veniva da... Sì, delle parole strane che lui mi ha insegnato a leggere. Ah, le parole, ok. Scusa. Non è un libro, no, non è un libro qualsiasi. Ad ogni parola ci sono poi sempre delle parole, quando è alla fine, ad ogni, esatto, dopo ogni sillaba va a leggere, scusa, le figure, le figure, ad ogni parola come artigli squarciavano la mia mente, e solo grazie alla protezione di quell'amuleto non ho perso il lume della ragione. Ma sei pazzo? Non avevo alternative, era l'unico modo per sopravvivere. Mi aveva promesso che una volta ottenuto la sua Tatiana, o come si chiama, mi avrebbe concesso di lasciare Barovia per non farci mai più ritorno. La otterrà presto, quindi possiamo andarcene. C'è sempre una via, c'è sempre un'ultima speranza, nonostante tutto. La luce dei cavalieri Jedi brilla su di noi. Guarda, dacci il più uno della luce. Io tiro fuori la spada. No, io ho già la spada tipo sguainata. Dacci il più uno. Bardistran. Questa non è un'arma primitiva. L'arma raffinata per tempo. Il tuo animo si sente confortato, ma non dalla luce della... insomma, quella che avevate acceso, mm-hmm, bensì dal talismano che ti è stato consegnato dal buon Atanas. Ah sì, cioè tu conta che è tutto sporco di sangue, io sono una pozza di sangue. E ciò nonostante, vedi la gemma che sta al suo centro, che una volta era opaca, scura. Adesso è bella, vivida, splendente. Ok, che cosa fa questo talismano? Attune questo talismano, esatto. E posso farlo anche se ho già la spada più 2? Sì, anche perché la spada non penso lo richieda. E si può avere fino a 3 oggetti sintonizzati sul tuo canale. Ricordate di seguirci sul nostro canale. Esatto. E percepisci che questo amuleto può solo sintonizzarsi, può parlare soltanto con paladini o chierici di allineamento buono. Ah. E però riesci a capirlo. Bene, bene. E che cosa fa? Questo amuleto della stilizzato ricorda la forma di un sole, racchiude il potere un forte potere di contrastare i non morti, in particolare i vampiri. Muy bien, muy bien. Più informazioni, anzi tutte le informazioni ti saranno chiare una volta che ti sarai sintonizzato con lui. E magari non è che apre anche una certa tomba che abbiamo distrutto per sbaglio. Intanto me lo metto. E bene, dobbiamo ricongiungerci con Ilia a questo punto. Bayer, sta arrivando qua, dei nostri, Ilia. Non è vero? Sta arrivando qua, Ilia. Atanas vi comunica questa cosa. Okay. Comunichi altra cosa. L'ho visto. Beh, come fatto a risalire allora? Cominciamo a risalire. Ok, parlate con Bayern. Ok, Atanas informa. Beh, io lo voglio convincere a tornare dalla nostra parte. Bayern, non è mai detta l'ultima parola. Tu o hai avuto una seconda occasione, l'occasione di combattere Strahd nel modo giusto. L'occasione di opporti a questo regno di tenebra e oscurità, e di combatterlo con la luce. L'occasione... E ci saranno allora dei lupi, e degli scudi, e dei vampiri. Quando l'era dei uomini giungerà al crollo. Ma non questo è il giorno. E se non riusciremo, almeno lo faremo con onore. Come dice questo cartello, che ho al collo. Ah, ovviamente il talismano lo nasconde invece sotto tutto. Lo tieni comunque. Eh beh, sì, è. Ah no, il talismano, pensavo dicessi il cartello lo nascondo. Il cartello è bella vista, il talismano lo nascondo sotto. Perché lo tieni? Il libro che lo prende. Oh, il libro è. Il libro per il momento. Povero sfortuna è andato via, quindi non lo può prendere, piccolo. Al massimo dopo un po' chiede, ma dov'è sfortuna? Race, attacca. Sfortuna, l'ho sentito suonare una canzone che diceva di raggiungerlo. Ho visto un paio di esplosioni di fuoco. Vabbè, posso intuire che sono sue palle di fuoco. Ma sì, l'abbiamo visto, dai, eravamo più o meno al suo livello. Porca troia. Cioè, quindi sì. Forse sì. E ha combattuto con delle streghe, dovremmo... Forse invece che stare qui a chiacchierare con Bayern, magari andiamo su. Ma te l'ho detto cosa era successo. Non c'è tempo di giocare a D&D, si deve fare il video sugli addominali. Oddio, cosa ha pubblicato? 4 ore fa, tra l'altro. Deve andare al mare, non può andare in palestra Milano Marittimo. Ci chiedevamo una cosa, Worldwide Bonazzi, chi lo scoprì che fu taggato? Cioè, lo disse lui o fu scoperta la cosa? Merda, Vez, credevo chiedessi per la pizzata io. Pizzata? È saltata, dai. Non so, secondo me ci ha detto lui. Comunque lui è ancora taggato, non sei mai tolto. Avrei puntato su Giulio, quindi. Giulio dice come? Così? Che l'avevi visto tu? Io, ma, no, secondo me lui l'ha detto a me, poi io l'ho detto a chiunque altro. Sì. Giustamente, perché sembra una notizia fondamentale per la nostra amicizia. Come lui poi in realtà lì ha capito che doveva rivolgersi a un determinato target. In realtà è stata una svolta commerciale. Sì. Bene, a seguito delle vostre parole, Bayern ti dice: d'accordo, Vardistran, vi seguirò. Grande, bentornato, fratello. Mangiamo, spezziamo insieme la piadina della pace. Quindi, quindi guardo, ne faccio, quindi non lo devo legare. Prepariamoci per la battaglia, ungendoci con i sette squacqueroni. Questa non è una risposta alla domanda, però ok. Squacquerone sacro. Vabbè, non è affare mio. Vado a cercare sfortuna. Sì, saliamo tutti, dai, ovvio. Iliad. Chiedo ad Atana se eventualmente per risfruttare il teletrasporto del calderone al contrario dovremmo avere nuovamente una pietra e usarla dove siamo apparsi. Immagino di sì. Ma come fanno loro ad avere due pietre dello stesso colore? Se ne prendi una e riappare solo dopo che hai usato il calderone. Non ha senso avere due pietre dello stesso colore. Come fai a fare avanti e indietro? Ah no, devi avere la pietra del colore di dove vuoi andare. Diversi. Scusa. Quindi, ok, avremmo potuto prendere la pietra per tornare là. Vabbè. Avremmo potuto prendere tipo tutte le pietre e tenercele, però non l'abbiamo fatto. Sì, vabbè, però avremmo potuto fare un sacco di cose, però... Vero. Bene. E con con questa ricongiunzione si conclude la 75esima puntata. Dai, che ne mancano 25. Esatto. E siamo a 100. Apparentemente sembreremo verso la fine, però poi non so. Sì, sì, per Halloween ci siamo. Tu, Katta, che dici? Non dire dipende da cosa fate. Tra una cosa e l'altra, arriviamo all'85. Dovremmo combattere Radio prima o dopo. Fate un po' i conti se non è Halloween. Sì, più o meno. Ci sarebbe. Cioè, dici che andiamo più avanti. Interessante. Va bene. Allora, grazie a tutti quelli che... pochi ci hanno seguito, quindi grazie Ambra, e vi ricordiamo che ci potete seguire sui nostri canali social, Tycoons & Dragons, RimGDR, attenzione, watch out the podcast, che si arricchirà domani, direi, di un episodio di Umbra Imperi, e ne abbiamo un altro in essere. Tu, Katta, invece ancora non hai... No, e non so quando lo farò. Te ne mancano tre con questo, direi, giusto? Sì, giusto. Ok. Giusto. Anche a Giulio più o meno. Va bene. Non è che non è tipo 11. Sì, lo so. E prossima settimana giocheremo a Umbra Imperi, giusto? Sì. E poi tu Vets parti dopo? Sì, dopo ci saranno due settimane in cui non ci sono, quindi se vi va bene faremo una pausa. E quali settimane sono? Sono la settimana che 5 va... e 12. Sì, ok. Questo è il concetto. Sono dal 5 al 12 luglio, agosto. Dal 5 al 16 sarebbe, però nei due giorni sono 5 al 12. Esatto, è corretto. Va bene, detto questo, non perdete la fede, non perdete la fede in tutto ciò che è gioco di ruolo, perché ricordate che chi fa la sua manovra, quando è alla fine, in qualche modo viene resuscitato da Race. Quindi, ai prossimi episodi, Tycoons & Dragons, RimGDR vi danno la buonanotte. Anche gli Ice Peak Trotsky Ice Peak, quello che è, e niente, continuate a seguirci, fatelo, ascoltateci, dissateci, diteci, fateci sapere eventualmente, fateci sapere se volete più sangue o più descrizioni. Se volete più descrizioni, in realtà non fatecelo sapere perché sono già abbastanza. Ai prossimi episodi e buonanotte a tutti. Ciao. Buonanotte. Ciao.